stamattina abbiamo iniziato con un seminario di approfondimento. Abbiamo già fatto una prima chiacchierata con Eva Torremocia, poi la rotenta Maria Giuseppe e Saverio Nannini. Eva arriva da Barcellona, da Andalusia. E Saverio dal Mugello, dalla Firenze. E poi l'avrò visti Cristina Grandi di Aiaco, che purtroppo non è potuto venire. Proprio Eugenio di Aiaco Lombardia, ci dà una mano un po' nel discorso. E era previsto anche Roberto Schellini, che anche lui, Schellini, però anche lui ha avuto l'operato di ernia. Ok, problemi di salute, non è potuto venire. E l'argomento di oggi è in particolare sistemi di certificazione di garanzia partecipata. Abbiamo fatto anche un buffet con un po' di vino, per cui sono disorientato. E questo è l'ultimo momento di agricoltura, che è un percorso che trovate i volantini anche fuori, che va avanti da un paio di settimane. Abbiamo fatto due bellissimi spettacoli di teatro, l'ultimo ieri sera all'Abel, che per chi viene da fuori anche noi lo riproporremo tutte le date. Veramente fatto bene, un'ora e mezzo vivace, tenuta bene ieri, c'era un bel giro di gente, ieri siamo stati contenti. Due settimane fa abbiamo fatto Maputerra con Ian Barosè, molto molto bello, non c'era tanta gente ma ce lo siamo goduto chi c'era. E 15 giorni fa abbiamo fatto qualche convegno con le istituzioni, anche quello è stato interessante. Si è aperto un discorso su una proposta di legge regionale a favore dei gas, che è stata un'operazione fatta dal PD regionale facendo un copia e incolla della legge Umbra, però è stata un'occasione per far discutere i gas. Tutta la Lombardia e i gas si stanno muovendo cercando di capire come rispondere a queste sollecitazione, e l'intenzione è quella di adesso rivedersi e fare delle proposte, in qualche modo anche rivedendo quella proposta di legge che ha delle lacune. Quindi un po' la proposta è quella di non sostenere tanto i gas in quanto tali, ma di sostenere il metodo di scambio che c'è fra piccoli produttori locali e il gruppo d'acquisto, banalmente perché subentra il problema di come riconoscere il gas. Queste leggi richiedono ai gas di essere istituzionalmente riconosciuti e i gas per loro forma non lo sono, e quindi si naturerebbe questo. Oggi il tema di base è agricoltura bene comune, ce lo siamo detti l'altra volta, bene comune perché soprattutto in questo territorio l'agricoltura non è una forza produttiva economica, ma ha una forza per noi più che altro anche di presidio del territorio, di tutela, un valore ambientale, un valore anche sociale, di riscoperta di modi di consumare in un certo modo, e quindi il riavvicinarsi alla terra ha un valore pedagogico e sociale molto più ampio. È un bene comune, abbiamo chiesto alle istituzioni l'altra volta come farsene carico. La discussione di oggi è più orientata a come le comunità locali, consumatori e produttori, ma in senso più ampio cittadini e gli agricoltori, i produttori che sono sul territorio, possono allearsi per sostenerla. E come dicevo, abbiamo già iniziato, quindi per qualcuno adesso cerchiamo di dare continuità al lavoro di stamattina, ma introducendo anche per chi è arrivato nuovo nel pomeriggio, e quindi ripresenteremo un po' magari i temi con qualche apporto in più e poi ricondivideremo un po' le domande che emergono. Giuseppe De Santis ci fa da moderatore. Buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio, grazie Marco. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti direi. No? Due piccole note di servizio, sono state perse queste chiavi prima di... No, non sono perse. Le perde sistematicamente. Normale. Faccio il telefono, ci dice, ho lasciato lì. La seconda riguarda il fatto che lascio il telefono acceso perché ho un amico senegalese che gira per Milano la prima volta, se ci fosse emergenza almeno rispondo, non lo lascio. Dunque, riprendiamo come si deve e come bisognerebbe sempre fare. L'agricoltura come bene comune, l'ha già dato Marco il benvenuto a questi ospiti, questo tema nasce da un disagio fondamentalmente. Noi viviamo in una società e in un periodo della storia di questa società che è segnato da un'abbondanza di cibo esagerata, che poi ha anche delle ripercussioni sociali, sanitarie, tutto quello politiche, economiche importanti, e mai come adesso noi viviamo culturalmente una separazione di competenze e anche fisicamente una separazione di quello che noi siamo come consumatori da come invece questo cibo viene prodotto, come viene prodotto. E allora, in qualche maniera, visto che siamo in un momento di passaggio importante, ci chiedevamo se non fosse in qualche maniera interessante e utile in qualche maniera cercare delle connessioni attorno a noi di esperienze che in primo luogo oppure indirettamente si stanno ponendo la possibilità che un riavvicinamento tra il tema del cibo, il tema della produzione di questo cibo e l'esperienza quotidiana fosse uno degli elementi di cambiamento più interessanti per invertire un sistema che manifesta a tutti la propria crisi. Allora, abbiamo Eugenio Secchi, rappresentante di AIAB, l'associazione che in Italia si è spesa negli ultimi 30 anni più di tutti per promuovere la cultura della produzione e dei produttori biologici. Abbiamo Eva Torremocia, che in primo luogo la definirei esperta e direi anche una delle massime esperte del tema dei sistemi di garanzia partecipate, cioè quei processi che in qualche maniera vogliono svelare e contemporaneamente educare, apprendere quello che ci sta dietro alla produzione del cibo e quello che sta dietro chi produce il cibo. E poi abbiamo Saverio Nannini, che è innanzitutto quello che si ami definire produttore agricolo, è agricoltore, ma è anche membro di un'associazione contadina italiana, l'ASCI, e tra gli animatori della Fierucola di Firenze, che è una delle esperienze storiche di distribuzione alternativa di cibo, chiamiamola così, e che in qualche maniera nel tempo è stato animatore a livello italiano delle riflessioni attorno a cosa voleva dire produrre il cibo e consumarselo vicino. Allora, partiamo da queste storie anche abbastanza differenti, cercando di esplorare appunto il tema della giornata. Magari Eugenio, vuoi iniziare tu a parlarci un po' dell'esperienza di AIAB? Va bene. Allora, premesso che non sono a livello della Cristina, nel senso che io è un po' di anni che collaboro con AIAB Lombardia e seguo un po' tutto l'iter delle iniziative che vengono fatte, per cui vi darò un attimo il quadro di quello che stiamo facendo e anche le ultime iniziative che abbiamo messo in cantiere, che secondo noi sono molto importanti perché aprono la prospettiva o danno la prospettiva anche di poter inserire il biologico nelle mense, perché abbiamo con la regione stiamo sviluppando un progetto che si chiama Metti il bio nella tua mensa, che ha come intenzione quello di arrivare a far sì che a Milano e in tutta la Lombardia anche il biologico, cioè che il biologico venga sempre più utilizzato nelle mense. Comunque questo magari ne parlo successivamente. Come AIAB Lombardia, noi ormai sono più di 20 anni che siamo presenti, prima come ente certificatore, poi sapete che 7 anni fa la parte che certificava si è staccata da AIAB, ora siamo come associazione di promozione dell'agricoltura biologica, ci occupiamo in particolare di tutte quelle attività che vanno dall'organizzare delle fiere o la partecipazione di operatori biologici a fiere sia nazionali che internazionali, all'organizzazione di momenti di dibattito e di promozione del biologico e tutte quelle serie di iniziative che fanno sì che il prodotto biologico sia sempre più riconosciuto e venga sempre più utilizzato all'interno di quelle che sono le attività delle persone, ecco. Per cui diciamo che dal punto di vista di queste attività che facciamo come AIA Lombardia, pur essendo in un territorio dove la presenza di operatori biologici non è elevata come in altre regioni, voi dovete sapere che in Lombardia nel registro regionale sono iscritte all'anno scorso 1161 operatori biologici, di cui 700 all'incirca sono inseriti come trasformatori e i rimanenti sono inseriti come produttori, per cui ci troviamo in un contesto economico dove c'è una rilevanza maggiore di trasformatori, quindi da aziende che fanno sia la trasformazione sia anche l'impacchettamento, perché noi abbiamo la presenza sul territorio anche di aziende che lavorano prodotti che arrivano del biologico, che arrivano da tutta Italia e che arrivano anche dall'estero, per impacchettarlo e poi eventualmente commercializzarlo all'interno di quelle che sono le catene del biologico. Per cui la particolarità della Lombardia è proprio questa, cioè avere una presenza limitata di aziende produttrici e una maggiore quantità di aziende di trasformazione. Questo crea un problema che poi penso che anche come operatori e come esperienze dei gas penso abbiate incontrato, è quello che tante volte per quanto riguarda il biologico in alcune filiere diventa sempre più difficile rispondere alla domanda. In particolare noi abbiamo la situazione delle produzioni orticole, dove per quanto riguarda la domanda di prodotto biologico è sempre molto più alta rispetto a quella che l'offerta, e tante volte si fa fatica, i gas fanno fatica a reperire il prodotto. Comunque, noi come AIA Lombardia ce la mettiamo tutta per far sì che il biologico abbia sempre maggiore rilevanza. Nell'esperienza che stiamo facendo ci incontriamo, e qui magari affronto un po' le tematiche che sono all'interno dell'argomento di questo incontro, nel confrontarci con gli operatori, tante volte ci troviamo ad avere delle domande in merito sia alle problematiche legate alla commercializzazione del prodotto, alla certificazione, perché tante volte ci viene sollevato le problematiche legate alla difficoltà per un piccolo produttore di certificarsi, non tanto per quanto riguarda le problematiche di tipo economico, perché come sapete per gli operatori biologici di piccole dimensioni la certificazione pesa all'incirca qualche centinaia di euro, ecco, quindi non è un peso molto, molto rilevante. Però tante volte le problematiche legate alle questioni burocratiche tante volte disincentivano il produttore a certificarsi. Qui bisogna far presente che anche dal punto di vista delle conoscenze magari alcuni operatori non sanno che tramite delle misure del PSR, in particolare la misura 132 del PSR, è possibile avere il rimborso di tutte le spese di certificazione. È chiaro che se un'azienda si deve mettere a fare una domanda per 200-300 euro, magari viene disincentivato perché poi l'iter comporta una serie di impegni. Se però la cifra su cui chiedere dei rimborsi magari è più consistente, il consiglio che diamo è quello che gli operatori cerchino in tutti i modi di poter utilizzare questo strumento che la Regione, che PSR mettono a disposizione. Comunque, come dicevo, le problematiche legate alla certificazione tante volte disincentivano il piccolo produttore a certificarsi, e questo secondo noi non è un buon segnale. È chiaro che qui non si mette in discussione la qualità del prodotto, però per noi il prodotto biologico è biologico in quanto certificato, per cui bisogna trovare tutti i modi, come AIAB stiamo facendo questo sforzo che è iniziato l'anno scorso o forse anche di più per trovare delle soluzioni sia per quanto riguarda tutte le questioni burocratiche sia per quanto riguarda quella che viene chiamata la certificazione di gruppo, che è una certificazione di terzi che però dà la possibilità alle aziende di certificarsi tutte assieme, e poi anche l'ipotesi che è stata sperimentata negli anni passati, che è questa dei sistemi partecipativi di garanzia, che è un sistema che dà la possibilità al produttore, però anche al consumatore e anche ad altre persone, anche altre figure, di entrare direttamente per poter controllare quelle che è la realtà del produttore. Quindi non è più una certificazione esterna al sistema produttivo, ma è una certificazione interna con delle regole, con delle garanzie che garantiscono anche le persone che poi possono utilizzare i prodotti che arrivano da questi sistemi di garanzia partecipata. Sì, anche perché diciamo una cosa, su questa cosa poi siccome Eva l'ha vissuta in prima persona, magari lei ha più presente l'esperienza che sono. Cos'è la certificazione di gruppo? Ecco, la certificazione di gruppo è una certificazione di terzi, cioè da terzi, cioè è un ente certificatore che invece che certificare la singola azienda certifica un gruppo di aziende che si creano al loro interno un sistema interno di controllo, quindi si creano una regola interna e poi l'ente certificatore controlla, non tutte le aziende, ma delle singole aziende, però la caratteristica di questo sistema è che tutte le aziende rispondono direttamente di quello che fanno le altre aziende, per cui se un'azienda viene controllata e viene trovata non in regola, tutte le altre aziende ne sono coinvolte direttamente o indirettamente. Non so se ho detto bene, ho detto sì. All'incirca. Poi. Quindi questa è una forma di certificazione che vale in alcuni territori ben delimitati. Infatti le esperienze che sono state fatte in territori legati a parchi, perché con questa sistema di certificazione si certifica l'azienda, ma la cosa più importante è che si certifica il territorio, cioè quindi quando tu all'interno di un parco hai 10 aziende che sono certificate, che si certificano a gruppo, vuol dire che oltre ad avere certificato quelle singole aziende, tu hai certificato il territorio dove queste aziende lavorano. Però come dicevo, per quanto riguarda queste cose io penso che la Eva possa trattarle meglio di me. L'ultima cosa è questa esperienza che stiamo facendo sulle mense, la voglio ricitare perché è una questione molto importante. Noi abbiamo fatto questo progetto che si chiama Metti il bio nella tua mensa, perché pensiamo che le aziende biologiche, oltre ad avere lo sbocco normale dei negozi, lo sbocco dei gruppi d'acquisto solidali, una grande porzione di quella che è il mercato del prodotto biologico può essere rappresentato anche dalle mense scolastiche, dalle mense della ristorazione collettiva, per cui è opportuno che anche in questo settore ci sia sempre un maggiore coinvolgimento da parte degli enti locali, da parte di tutte quelle istituzioni che possono essere le commissioni mense, i genitori eccetera, affinché anche nelle mense sia possibile sempre di più introdurre il prodotto biologico, perché come sapete noi abbiamo l'esperienza di Milano che è dal punto di vista quantitativo, a Milano sono all'incirca 80.000 pasti che vengono fatti giornalieri e Milano Ristorazione praticamente non ha prodotto biologico se non un unico prodotto che è una caciotta che viene biologica, mentre per quanto riguarda tutti gli altri prodotti non sono prodotti biologici. Nostra intenzione alla fine di questo progetto è riuscire a spingere affinché anche a Milano sia possibile introdurre il biologico. Questo, vi rendete conto che se Milano dovesse passare al biologico, per le aziende lombarde è un grosso incentivo ulteriormente a convertirsi al biologico e a passare, al biologico. Io penso di aver finito, non so se sono stato utile. Tanto c'è la possibilità di fare un altro giro che ci riserveremo, quindi ci sarà tutta il tempo per poter continuare la discussione. Voi sapete che per, almeno nella lingua italiana, per mettere in relazione l'attività agricola con la cultura, con i saperi, bisogna forzare un neologismo, perché in realtà agricoltura si scrive con la O, mentre nelle altre lingue più diffuse in Europa in realtà non è così, agricoltura coincide con cultura. E la cosa che ci piaceva anche un po' forzare in questo caso era di dire: ma è possibile che il momento della certificazione del biologico sia un momento in cui si riconosce il valore dell'agricoltura attraverso un percorso sui saperi che l'agricoltura si porta dietro? E il percorso che ad esempio propone la garanzia partecipata sia anzitutto un percorso di apprendimento per i consumatori prima che di altre dimensioni. Allora, la domanda che farei a Eva, e poi naturalmente la lascio libero di rispondere o meno, è: delineando un po' quali sono le esperienze a livello europeo garanzia partecipata fra diversi soggetti, è possibile veramente che il legame fra questi differenti attori siano i saperi che si riescono a scambiare? Sì, ho capito bene. Mi sembra, perché dirvi... No, va bene, scusa. Che il mio italiano è un po' per le novi, è un po' così da una spagnola. Allora, ma credo che si mi capisce più o meno. Allora, questo di agricoltura, io sono... Per noi agricoltura è esattamente lo stesso, allora è una buona cosa di fare questo gioco di parola all'italiano. Tu diceva l'agricoltura e io parlo di identità, perché l'identità della nostra identità è stata sempre vinculata o legata al campo, all'agricoltura, al mondo rurale fino a 50-60 anni fa. In questo piccolo tempo abbiamo fatto una rottura diretta fra il mondo rurale e il mondo urbano e la città. E noi adesso parliamo di un incontro fra consumatori e produttori, ma veramente cosa si nasconde dopo, indietro questo sistema partecipativo di garanzia? È esattamente questo: recuperare tutta quella conoscenza che abbiamo sul campo, su cosa è fare produrre i cibi. È una cosa semplice, ma adesso la gente, i giovani, i bambini non sanno neanche che indietro un pomodoro ha un campo, ha acqua, ha semi, ha tante cose. Non sanno dove viene questo pomodoro, il latte, quale cosa. Lo diciamo sempre, ma è una gran verità. Anche gente che fa l'università adesso non ha questa conoscenza di questa cultura. Allora i PGE, Sistema Partecipativo di Garanzia, permettono, perché loro sono sistema di garanzia della produzione biologica e sono un sistema di controllo, diciamolo così, per capire cosa sono, che fanno, l'obiettivo è garantire che questo prodotto, questo cibo è biologico. Ma la differenza del sistema ufficiale attuale, che si chiama per parte terza, perché qualcuno di fuori che viene a dirnoi se lo facciamo bene o male, okay? Quello è un po' molto riassunto, un riassunto molto breve di cosa è la certificazione. Questa parte terza si basa su un esame, un controllo. Noi pensiamo che, giustamente perché vogliamo fare questo incontro, questa cultura, ricreare questa cultura, vogliamo imparare insieme, evoluzionare insieme e fare tutto insieme all'interno del cibo, che è indietro il cibo, ok? Allora, gli PGS si definiscono all'interno di un gruppo locale dove contiamo con la partecipazione di consumatori, produttori e qualche altro tipo di gente che vuole essere qua. Associazione, sindaci, qualcosa, ok? Sindacati, qualcosa. L'idea è lavorare insieme, l'idea è fare uno scambio di idea, di concetti, di necessità, di tutto. E l'idea non è solo di lavorare insieme alla definizione, ma anche sull'applicazione di questo sistema, e è molto importante lavorare come un punto chiave, e per il controllo abbiamo bisogno di contare con agricoltori e contadini sul terreno. Non è un tecnico che viene di fuori, è di fuori. È un agricoltore che sa come si fa il coltivo e un consumatore che ha qualche esigenza su questo coltivo. E fra le due decidono, si vanno a vedere questa finca, questa azienda, prendono note di cosa vedono e dopo in commissione all'interno del gruppo si decide, in comparazione con la regola di riferimento che è la bio, si decide se questa finca è biologica o no. È molto semplice, no, molto rapido, veloce, non so se si capisce bene, ma l'importante è la partecipazione, chi fa è veramente questa cultura. E l'importante di questo sistema sono due cose: la partecipazione, come dico, la seconda è cosa si impara, perché imparare l'agricoltura, i contadini lo sanno, lo fanno giorno dopo giorno, ma per noi consumatori è molto importante, e avete detto per qua, non so se Marco, cosa è veramente essere agricoltori, perché tante volte come consumatori domandiamo, abbiamo tante esigenze su un cibo, vogliamo la perfezione sul cibo, ma dopo il terreno, il campo noi fa avere il limite, vedere il limite della produzione. Allora in questo momento di incontro, Saverio lo puoi dire meglio da me, non è facile, cioè, l'incontro non vai a permettere di capire come cosa è essere agricoltore nell'Europa con una PAC, con un ministero e con tanti burocrazia e documentistica da fare. Ora PGS prova a creare un incontro fra tutta questa gente per arrivare a un obiettivo finale che è la certificazione, basandosi sulla partecipazione, quella è la base. Dopo il ruolo dei consumatori può essere interessante, perché all'Europa la cosa diversa di PGS, diversa di altri paesi del mondo, è che noi all'Europa siamo molto più consumatori che produttori. Allora il ruolo di consumatori è molto importante. Come? Perché stiamo anche valutando un nuovo approccio alla commercializzazione del cibo. Allora in questo sistema possiamo lavorare insieme anche sulla commercializzazione, perché facciamo una vendita diretta o qualche altro sistema alternativo di commercializzazione. E qua il consumatore è molto importante, perché aiuta all'agricoltore a vendere il suo prodotto fuori di sistemi di distribuzione più industrializzato. Quella è un po' la presentazione. Voglio fare un piccolo aggiungimento sulla certificazione di gruppo. E la certificazione di gruppo funziona sulla base di un gruppo di agricoltori che hanno in comune o un posto, un luogo geografico di produzione, sanno tutto sulla stessa comunità comune, o fanno il stesso coltivo e sanno lo che si domanda è che devono avere un punto di incontro dove si può fare una coordinazione di tutti loro, sia una cooperativa di olivicoltura per esempio, la cooperativa, il tecnico della cooperativa va a essere quello che fa la coordinazione, sia un parco nazionale come il progetto dell'IAB, la coordinazione si fa all'interno del parco con tutta l'amministrazione del parco. L'importante è avere un punto d'incontro fra tutti. E dopo la certificazione, il sistema di controllo interno, sono sistema di controllo lo stesso che la certificazione, dove tu devi spiegare come si fa la certificazione, cosa si vedono, cosa si controllano. Dopo viene un'entità di certificazione e cosa valuta è la documentistica. Valuta sì, è una documentistica che sta bene riempita, si è completa, si ha tutta l'informazione che si ha bisogno per fare la certificazione, e alla fine va a una, almeno credo che è una radice quadrata, si dice così? Questo, sì. In matematica. Se abbiamo 16 aziende, facciamo una visita a 4. E allora io a questa azienda prendo la sua documentistica particolare e faccio una visita. E allora faccio la comparazione, cosa vedo e cosa ho visto sulla documentistica. E se va bene, ok, gli faccio la certificazione per tutto il gruppo, che funziona così. Non è lo stesso che il sistema partecipativo e garanzia, dove facciamo una visita tutti gli aziende. È un po' la differenza. Una domanda, ma questo gruppo di produttori ha già una certificazione parte terza? Questo non è ancora legale all'Europa, non è riconosciuto. Quindi non possiamo proporla. No, no, esattamente. No, perché qua ha una partecipazione nel senso che il gruppo partecipa nel riesco. Se uno sbaglia, tutto il mondo cade, ma è l'unica partecipazione. Dopo ognuno fa il suo, la sua documentistica propria. E l'Europa la riconosce per tutto il resto del mondo come sistema di certificazione della, del biologico. Si può fare per la banana a Costa Rica o a dove, o il cacao, o il caffè, ma non lo riconosce ancora per ora, no. Per ora. Ma la commissione, la comunità europea e l'Unione Europea è abbastanza ricettiva adesso con questo sistema, molto più che con PGS. È un po' la differenza fra le due. Uno è veramente partecipativo del momento della definizione fino all'applicazione. Il PGS è un po' più a cavallo fra le due. Sì, gruppo è a cavallo fra PGS e terza parte. Però anche il PGS può eventualmente prendere questa forma, cioè nel senso no? No, perché la base del PGS è diversa, è la base della partecipazione e l'orizzontalità. Allora non è possibile, sì è possibile, ma certificazione del gruppo... 16, sì, già. Ma è una differenza grande che non hanno consumatori. Ah, beh no, ma voglio dire, possiamo anche inserirci. No, io però è diventata una roba dunque, vi propongo che magari il dibattito lo posticipiamo, tanto segnatevi le domande, ci sarà tutto lo spazio per poter approfondire. Io invece ho una domanda per voi, ci sono altri produttori agricoli? Uno. Perché se si parla di incontro, di saperi, no? Cioè, noi viviamo anche in un contesto che ha dei suoi limiti, nel senso che la popolazione agricola italiana dovrebbe essere intorno all'1,9, adesso c'è il censimento nuovo, ci aspettiamo dati ancora peggio, l'1,9% della popolazione è agricoltore, mettendo dentro proprio tutti però, eh? Quindi persone che hanno altri redditi, persone che ci lavorano, che non ci lavorano, però hanno la terra e tutto il resto. E quindi questo incontro va a divenire sempre più complicato. Allora, la domanda che faccio a Saverio, anche perché grazie alle esperienze che alcuni agricoltori che perseguivano certi modelli di agricoltura, è per questi agricoltori che noi adesso siamo qua a ragionare di questi temi, in un contesto che arriva da 30 anni, come accennava Eva, di svalutazione sociale del lavoro agricolo assoluto. La svalutazione è prima sociale, poi è diventata economica e adesso politica, nel senso che di temi di agricoltura parlata da agricoltori se ne sente proprio poco in giro. Allora, Saverio, come tu vedi questo incontro e questo riconoscimento del valore dell'agricoltura che in qualche maniera adesso sta prendendo un po' la luce? Sicuramente lo vedo bene, però il problema è che manca il soggetto di riferimento, cioè l'agricoltore, appunto evidente anche qui stasera, sta diventando sempre più un fantasma, soprattutto un certo tipo di agricoltore, quello che si vorrebbe, diciamo, l'agricoltore produce prodotti sani a un giusto prezzo, sta diventando una persona, l'ago del pagliaio, ragazzi. Perché il reddito è quello che è, la pesantezza del lavoro, oppure l'accesso alla terra è sempre più difficile, soprattutto per i giovani, non dispongono di risorse, eccetera. Le regioni cercano di fare fronte con i PSR che offrono tributi di là, di qua, di sotto, di sopra, però è come evitare il mare Homesick, ecco, da un certo punto di vista. E i PGS, secondo me, in questo hanno possono avere un'importante funzione, quella tramite il tessuto relazionale, la rete che costruiscono, di avvicinare più persone, anche che di partenza sono lontane dai problemi dell'agricoltura, a questo lavoro, no? Noi veramente siamo trovati con ortisti, con persone che fanno l'orto poco più, persone anche molto giovani, no? Che hanno anche altri, soprattutto vivono perché hanno altri lavori, a pensare al lavoro agricolo come integrazione. Capite? Bisogna avere fantasia, cioè bisogna costruire le ossa con la massima fantasia. Cioè non è riprovevole il fatto che a un certo punto in un dato contesto non sono tutte aziende agricole, cioè l'azienda agricola impostata, cioè non ha, tutto sommato, bisogna costruire grandi relazioni perché è autoreferenziale. Cioè le relazioni si costruiscono, vanno costruite, le persone hanno bisogno di sopravvivere, cioè soprattutto. Quindi in questo il PGS ha qualcosa da dire, ecco, nel senso che appunto sono occasioni di incontro fra persone e quindi sviluppano da lì tutta una serie di progettualità, e una di queste è quella di produrre beni alimentari. Ma non solo, cioè ora io qui mi ero portato un appuntino, cioè delle prospettive di crescita ci sono per i produttori e per i consumatori definiti come tali, un po' abbiamo parlato stamattina, penso abbastanza dettagliatamente, quindi non starei a ripetere, no? Però volevo semplicemente citarvi che dall'interazione tra queste due figure possono nascere anche delle progettualità molto particolari, oltre appunto a prospettive lavorative, anche delle cose come per esempio noi nella zona appunto della provincia di Firenze c'è un Intergas, no? Penso che sarei anche qui. C'è una mailing list dove i gasisti si scambiano le loro informazioni. Ecco, è successo qualche tempo fa che un'azienda agricola, appunto, questa è anche la prospettiva dell'azienda agricola, è entrata in crisi economica, cioè prospettiva di fallimento, debiti non svariate, con 5 banche addirittura diverse, tra cui Banca Etica. Sì, è abbastanza divertente. E, ecco, si è attivato un gruppo di rappresentanti, di referenti di vari gas che hanno avviato un progetto di sostegno al produttore in difficoltà, e in questa maniera sono potuti reperire nel giro un mese ha messo insieme qualcosa come 20.000 euro che a queste persone, questi due ragazzi, sono serviti per acquistare degli animali con i quali incrementare la produzione e poi costituisce il loro rimborso ai gasisti, cioè con l'aiuto di una persona che lavora nel microcredito lì a Firenze. Stava elaborato tutto il progetto, il piano di rientro, un tutoraggio per queste persone, perché evidentemente poi insomma hanno bisogno anche di qualcosa di simile a un tutoraggio. Cioè, tutto questo che c'entra, direte voi, il PGS, c'entra perché quelle relazioni tra gas e produttori che si sviluppano nel PGS possono dar luogo anche a questo tipo di soluzioni per le persone in difficoltà. Cioè semplicemente per farvi vedere che questa interazione veramente, cioè, delle possibilità veramente interessante. Poi va bene, ci sono cose più banali, tipo appunto questa storia dei progetti di legge, i progetti di legge che le regioni ora stanno tirando fuori su, per i gas, no? Perché bisogna regolamentare tutto, bisogna regolamentare anche i gas, no? E allora, vabbè, cioè, molti gas ci stanno chiedendo un lavoro di consulenza su questa cosa, diciamo la nostra. Poi, vabbè, ogni regione lì ha le sue prerogative, insomma, ma anche questo per dire, no? Cioè, che un'interazione fra di questo tipo dà possibilità di far fronte a tantissimi tipi diversi di problemi. Con questo, grazie. Posso fare un piccolo, piccolissimo, brevissimo, sulla questione sia più complicato o più facile? L'esperienza in Andalusia per noi è che alla fine, perché voi avete 1,9, ma noi abbiamo 0,3% di agricoltori. In Andalusia o in Spagna? E in Andalusia abbiamo agricoltori, ma sono grandi proprietari, piccoli proprietari che vivono dell'agricoltura. Nessuno, è un'agricoltura di fine settimana. Non abbiamo agricoltori come qua. E per loro questo è stato... Abbiamo fatto un progetto di là con 2 anni, da 2 anni, abbiamo fatto una intervista prima del progetto e un'intervista alla fine del progetto alle stesse persone per capire l'evoluzione che avevano avuto. E alla fine assolutamente tutti gli agricoltori che abbiamo fatto l'intervista hanno detto una cosa, era che con il PGS non si sono sentito mai soli. E per loro era lo più importante, perché almeno si sono sentito accompagnato nel loro processo, non solo con consumatori, ma per loro era molto più importante questo incontro fra produttori, perché parliamo incontro produttore-consumatori, ma dobbiamo anche parlare di incontro fra consumatori e fra produttori, fra loro. E questo è molto importante. Allora, sì, è più difficile, ma alla stessa volta questo è un strumento per fare... essere un po' più facile qualche cosa, o almeno un po' più gradevole, amabile. Allora è anche un po' una forza per noi. Gestione del bene comune, agricoltura come bene comune. Savino ci ha introdotto a un'altra possibilità, ad altre pratiche che in qualche maniera stanno segnando questo riavvicinamento fra mondi diversi, quello urbano, quello rurale, queste culture che si sono separate una cinquantina di anni fa con l'avvento dell'agricoltura industriale, che ha portato sicurezza alimentare in Europa, non scordiamoci, questo è importante, che però adesso manifesta tutti i suoi elementi di crisi. E allora ci sono altre esperienze in Europa, ma anche in Italia, che forse per quanto riguarda il mondo gas sono anche più prossime, che sono questi, i paternariati tra i produttori e i consumatori. Cioè, al di là degli aspetti di certificazione, gruppi sociali, corpi sociali, si incontrano attorno a un obiettivo comune. Io cito i casi che più conosco, che sono quelli della conservazione del territorio, quello della ricostruzione del paesaggio. E questo è spazio comune, è bene comune. L'agricoltura diventa lo strumento con cui questa politica, questo prendersi cura della cosa comune può avvenire. Allora, quello che magari chiederei a Eugenio è quale potrebbe essere il percorso di alleanza stabile, che vuol dire poi interlocuzione con le istituzioni, anche grazie al lavoro che ha fatto AIAB in questi 30 anni, no? Non che prima citavo l'agricoltura contadina, ma poi l'agricoltura contadina adesso sta tentando un po' di costruirsi anche una visibilità istituzionale. AIAB negli anni ha fatto questo, ma va bene, ci sta. Che tipo di prospettiva tu vedi come interlocuzione, come sia istituzionale sia di alleanza con i consumatori? Faccio presente alla platea che AIAB recentemente, quasi recentemente, ha modificato il suo statuto e ad AIAB aderiscono, possono aderirvi anche i consumatori del biologico, non solo i produttori. Sì, sì. Allora, no, adesso io vorrei un attimo partire un po' dalla mia esperienza, nel senso che io sono molto convinto di quello che diceva il nome adesso, Saverio, cioè nel senso che secondo me proprio perché l'agricoltura assume un ruolo fondamentale nella vita e nella società, cioè nel senso che in questi anni, forse negli ultimi anni, la società ha, come dire, ha dato maggiore rilevanza a dei settori che forse dal punto di vista di quella che era la necessità del consumo producevano dei beni che si consumavano molto velocemente. Oggi invece si sta tornando un po' a rivalorizzare l'agricoltura, perché nell'agricoltura si vede un'attività economica dove l'uomo ha la possibilità di spaziare in tutte le sue capacità, perché oggi fare agricoltura biologica in particolare vuol dire fare prodotto di qualità, vuol dire tutelare l'ambiente, vuol dire avere rapporti con le persone di un certo tipo, instaurare rapporti con il consumatore di un certo tipo. Quindi oggi parlare di agricoltura vuol dire parlare di un settore economico che coinvolge totalmente la persona. Non so se riesco a essere chiaro in questo, che poi una volta era così, una volta si viveva, la cascina rappresentava il mondo in cui si esplicava tutta l'attività economica della persona, dal vendere, dal produrre, eccetera, no? Per cui oggi secondo me è opportuno, perché l'agricoltura sta vivendo una grossa crisi, l'agricoltura in toto, anche se per quanto riguarda l'agricoltura biologica magari abbiamo dei segnali inversi, cioè nel senso l'agricoltura biologica è l'unica in controtendenza che sta crescendo, però essendo una nicchia molto piccola, è chiaro che nel calo che sta avendo l'agricoltura, questo dato dell'agricoltura biologica in un contesto così grande non assume una rilevanza, come dire, non dà un segnale di controtendenza complessivo del settore, no? Per cui oggi è opportuno trovare delle forme anche, come dire, di creatività, cioè mettere in campo tutta la creatività per, sia dal punto di vista produttivo che anche delle relazioni commerciali, trovare le forme che facciano sì che chi interviene in questi processi, dal contadino al consumatore, sia totalmente coinvolto in questo processo. In questo senso secondo me i sistemi di partecipazione di garanzia partecipata danno questa possibilità. Oggi per far sì che l'agricoltura si riprenda, bisogna coinvolgere in questo processo agricolo tutte le persone, cioè il consumatore deve avere la possibilità di andare in azienda a vedere quello che l'agricoltore fa, di assaggiare quello che l'agricoltore fa, eventualmente anche di partecipare alla lavorazione, perché in alcuni casi noi abbiamo aziende che, danno la possibilità al consumatore anche di partecipare a momenti produttivi. Quindi secondo me, questa è una mia posizione personale, penso che effettivamente intervenire nell'agricoltura oggi per invertire questo processo è una questione fondamentale, perché io sono convinto che una società o uno Stato o una nazione che si liberi totalmente dal settore agricolo è una società persa, sia dal punto di vista di quello che viene prodotto, ma anche dal punto di vista di quella che è la cultura contadina. Quindi in questo senso è opportuno mantenere, darsi da fare perché si esca da invertire questa rotta. Non è un processo facile, perché i meccanismi economici globali sono meccanismi che stritolano tutto, cioè appena si entra in un contesto di mercato che va al di là del mercato locale, cioè i meccanismi di compravendita passano sopra la testa dei contadini, cioè nel senso che ormai il piccolo contadino non viene più nemmeno preso in considerazione, ormai si parla di grandi coltivazioni di agricoltura estensiva, per cui il rischio effettivamente è quello che, se non si invertono questi meccanismi economici, il rischio è quello che il piccolo agricoltore, e noi i segnali li abbiamo anche in Lombardia perché ogni anno i produttori continuano a calare, è chiaro che se non si invertono questi meccanismi economici diventa difficile che l'agricoltura, in particolare l'agricoltura locale, l'agricoltura del piccolo contadino, possa avere spazio per andare avanti, ecco. Per cui bisogna fare anche un lavoro a livello economico, a livello, come dire, di regole globali che poi incidono anche nel nostro territorio, incidono in provincia di Como, incidono in Toscana, eccetera. Ecco, io penso a questa cosa qui. Allora, prego. Ma io voglio aggiungere una cosa, cioè quello di cui si sente più bisogno, perlomeno da noi, è non tanto di regole o di sovvenzioni, quanto di spazi. Cioè, qualcuno stamattina parlava di visibilità, no? di questa interazione tra consumatore e produttore agricolo. Cioè, questa visibilità si incrementa nel momento in cui vengono concessi spazi per queste cose, e non solo fisici, anche politici. E questo è un po' dove cascano un po' tutte le amministrazioni, perlomeno dalle nostre parti, dove finora almeno le amministrazioni sono trovate un po' in contraddizione. A parole tanta disponibilità, e poi in realtà è molto difficile trovare spazi che consentono a questa interazione, cioè a questo rapporto, a questo scambio, che poi è anche uno scambio fisico di prodotti, eccetera, eccetera, si possa sviluppare una certa facilità. Trovare un momento per collocare anche un semplice magazzino per stoccare i prodotti è difficilissimo in qualche caso. Ci sono le reti, insomma le reti, diciamo quelle organizzazioni tipo ARCI, come da noi, in alcuni casi sono più sensibili, però non è una cosa strutturata, una cosa dipende dalla buona volontà del singolo, e se invece ci fosse veramente un reale interesse da parte dei politici su questa cosa, ora cominciano a avviare, però va sempre nella direzione della regola, cioè do questo ut, cioè insomma affinché si sviluppi un certo tipo di magari di consenso, cioè. Quindi invece lo spazio dovrebbe essere dato in maniera più possibile disinteressata, lasciare liberi le persone a sviluppare questo rapporto in maniera che credono. Poste creative, sarebbe interessante adesso capire, Giacomo Giovannelli, se l'esperienza di questa, io dico coraggiosa perché tutto sommato, tutto sommato non scontata, direi, esperienza di cortocircuito, se ci puoi condividere un po' anche da dove nasce e dove volete arrivare. Dove vogliamo arrivare? Non so, vediamo cammin facendo. Non avete un piano strategico? Non avete stiamo lavorando. Piano quinquennale. Allora, nasce dal 27 maggio del 2009, 2 anni fa. Nasce da un'esperienza però pregressa dovuta all'attività fatta attraverso l'associazione L'Isola che c'è, che è diciamo, la rete di economia solidale qui del territorio comasco, e l'incontro fra una domanda urgente che era emersa dal gas sulla produzione soprattutto di ortaggi e ortofrutti. Perché i gas erano già attivi e presenti capillarmente sul territorio, ma lavoravano quasi esclusivamente con i prodotti secchi, quindi ad alta conservabilità. mentre per quanto riguarda la frutta e la verdura si andava a fare la spesa ai supermercati. Solo pochi gas avevano un contatto diretto con qualche produttore locale. Da questa esigenza abbiamo poi deciso di costituire un mercato del fresco con i produttori locali, in parte già in contatto con alcuni gas, in parte ricontattati sul territorio da parte nostra, e da questa esperienza di mercatino settimanale è nata poi questa cooperativa che un po' ha strutturato questa attività. Quindi la decisione che è stata presa da subito, dopo un po' di incontri durante il ragionamento tra produttori e consumatori, è stata quella proprio di costituirsi una cooperativa, cooperativa sociale di tipo A, quindi esistenziale, non una cooperativa che poteva fare strumenti lavorativi, in quanto il nostro target era quello di fare formazione. La sfida è quella di fare formazione vendendo, che è ancora più impegnativa. No, è una sfida anche dal punto di vista fiscale, non so, perché chi ci ha seguito ha detto vabbè, io gioco con voi questa carta, però vediamo come va, nel senso che siamo una cooperativa sociale, ma non possiamo accedere ai bandi per le cooperative sociali, in quanto non siamo iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali, in quanto non il nostro, cioè stiamo in piedi, la nostra attività prevalente non è quella della formazione commercialmente, ma è quella della vendita. Però in realtà noi pensiamo che vendere sia una formazione, nel senso che stiamo formando il territorio affinché si acquisti da produttori locali e che questi produttori locali cerchino di trasformare il loro prodotto verso il biologico. Quindi la sfida è stata questa, la cooperativa è al secondo anno, al secondo bilancio, il nostro consulente è contento di come stiamo andando, siamo in rosso ma non troppo, e quindi abbiamo buone speranze, diciamo. Quello che, tornando un po' anche al TGS, quello che a noi ci è subito parso significativo, ma ancora prima di costituire la cooperativa, è stato quello di darci dei criteri, cioè quali erano i paletti secondo i quali i produttori poi avrebbero potuto far parte della cooperativa oppure no. E quindi col mandato, cioè, si è proprio costituito un gruppo criteri che è un po' simile a quello che dicevamo questa mattina del gruppo Listini, che ha cercato di valutare quali potessero essere le caratteristiche fondamentali dei produttori per poter aderire alla cooperativa. Ci sono anche dei passaggi formali, cioè il gruppo criteri ha avuto un mandato dal CDA della cooperativa, e a sua volta quello che viene deciso passa poi attraverso il CDA, formalizzato attraverso il CDA. In questi due anni, ormai un po' di tempo che è operativo, abbiamo redatto una specie di regolamento interno per i produttori che partecipano al mercato settimanale del sabato mattina, che facciamo tutti i sabati mattina, e per i produttori, commercianti in questo caso, che invece ci riforniscono per la parte del secco. E questo, diciamo, è stato un primo lavoro serio, nel senso che su quello poi abbiamo fatto anche delle scelte, forse anche in parte sofferte, e che un po' si rilacciano a quello che ci diceva oggi Eva, e in parte sono un po' inventate da noi, cioè non so se poi per esempio noi accettiamo che i produttori non siano certificati, però devono dimostrare un cammino verso una certa biologicità, l'abbiamo chiamata. Abbiamo come riferimento il regolamento europeo sul biologico, però non siamo così rigidi sull'applicazione di questo regolamento, o meglio, prendiamo di volta in caso per caso, per ogni caso prendiamo in considerazione tutte le eccezioni che potrebbero esserci e le valutiamo e poi decidiamo di conseguenza. Non facciamo una visita a gruppo, però devo dire che questa cosa mi piace molto, nel senso che la visita, il sistema di controllo proposto oggi come PGS non lo conoscevo, l'ho letto sui documenti che sono girati prima di questo incontro qua. Noi ci siamo strutturati in questo modo. Io sono agronomo, sono un tecnico, ma sono un tecnico che non ha mai coltivato l'orto, quindi se vai, stiamo iniziando. E quindi non ho un'esperienza diretta, se non i 4 metri quadri di casa mia. E questo vuol dire, insomma, fare il controllo a un produttore che coltiva da anni è comunque un po', cioè, mi sento anche preparato. No? Allora noi abbiamo fatto un affiancamento con un agronomo certificatore, quindi abbiamo proposto a tutti i nostri produttori un sopralluogo da parte, vabbè, mia e soprattutto del certificatore, il quale fa una visita molto, come dire, è quasi una discorsiva, ecco, non è proprio una visita sul campo, non sempre sul campo, dipende anche poi che da noi magari l'azienda è in un posto e il terreno è un altro, quindi è un po' anche difficile seguire tutto così velocemente. E sulla base di quello che ci viene detto e su quello che dice il certificatore facciamo le nostre valutazioni. Non esiste quindi un comitato che, come si diceva stamattina sul BGS, dopo una visita fatta da 7-8 persone, fra cui metà produttori, metà consumatori, magari anche qualche tecnico, eccetera, prende poi la documentazione in mano e decide. Dopo questo controllo fatto col certificatore, io faccio una specie di nota di quello che abbiamo visto e ci è stato detto e poi insieme decidiamo. Stamattina è stato fatto l'esempio di questa produttrice che ha le vacche da latte legate e che quindi non potrà mai essere bio, però noi abbiamo deciso di tenerla all'interno del cortocircuito perché a parte l'alpeggio che fa con le sue bestie 3-4 mesi all'anno, ha un rapporto diretto con le bestie che non abbiamo visto da nessun'altra parte, perché non è che abbiamo una grandissima esperienza, però anche il certificatore ha notato questa cosa. Quindi il benessere animale, se può essere legato al discorso di sì, non avere lo spazio di muoversi, per noi ha valore anche il fatto che l'allevatrice le conosca una per una, le chiami per nome, ci parli, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo messo sulla bilancia anche questo. Altre cose che noi chiediamo ai produttori è di avere la fiscalità in ordine, di rispettare le norme, di rispettare la stagionalità delle colture, di riconoscersi e fare riferimento a quanto scritto nello statuto della cooperativa, che è uno statuto lunghissimo, noi abbiamo citato qua alcuni passaggi, quindi criteri trasparenti e verificabili, prodotti preferibilmente da agricoltura biologica, rispetto delle problematiche sociali e sindacali. Quello comunque che alla fine chiediamo è che il produttore che non è bio si metta nelle condizioni di produrre in modo biologico, quindi con tutti i tempi che ritiene necessari, però con tutto il tempo che ritiene necessario, però che faccia questo passo verso la biologicità del prodotto. Abbiamo anche notato che quando questo succede, poi il produttore stesso che dice: ma se io devo cambiare il mangime che do magari alle mie capre perché non è OGM free, per esempio, e quindi devo fare già una spesa per cambiarlo, a sto punto faccio un passo successivo e mi certifico. E quindi, vabbè, è successo anche questo. Contemporaneamente il cortocircuito, visto che ha anche il suo statuto prevede anche un discorso di informazione sul territorio e insieme anche ai progetti cofinanziati da fondazioni bancarie, abbiamo promosso anche una scuola di agricoltura biologica alla quale hanno partecipato anche alcuni dei nostri produttori. Quindi abbiamo organizzato l'anno scorso 5 corsi, produzione a bio, un corso tecnico di come iniziare a fare un'impresa agricola, di cui stiamo replicando i corsi adesso a giugno. Poi uno sulla orticoltura bio, zootecnia bio e frutticoltura bio. a parte l'ultimo che non abbiamo avuto iscritti, che insomma riprovato anche quest'anno, non sono stati iscritti sulla fruticoltura, poi neanche il territorio non è che aiuta tanto, però tutto il resto è andato molto bene, cioè, hanno avuto molti riscontri. Il problema serio è, lo diceva anche Saverio, è l'accesso alla terra, qua particolarmente molto sentito. Abbiamo fatto 6 visite ai nostri produttori, altre 3 sono in programma verso giugno, tra cui un vivaista che sta rifornendo da quest'anno i nostri produttori di ortaggi, tra cui Davide e uno di loro, e con i quali invece quest'inverno siamo riusciti a impostare un discorso di programmazione delle produzioni. Quindi da adesso in avanti c'è la stagione, non dirà perché sennò, abbiamo stabilito con loro che tipo di verdura e in che quantità e a che prezzo cortocircuito pagherà ai produttori mese in mese fino a fine stagione, fino a ottobre, fatte salve le condizioni climatiche, quelle non possiamo prevedere. Quello che, non lo so, in prospettiva vediamo è il discorso della FGS, pensiamo in qualche modo di esserci cascati dentro, cioè non so, quello che abbiamo fatto in qualche modo gli si avvicina, ecco. Forse strutturarla meglio e avere anche la possibilità di confrontarsi anche con quello che stanno facendo ad esempio in Toscana, mi sembra molto interessante. E poi, non so, conoscendoci, gli agricoltori anche locali, un po' più, diciamo che non, con i quali non siamo ancora in contatto, si fanno avanti loro e chiedono di poter avere il mercato. Il problema è riuscire ad avere il mercato abbastanza ampio per tutti a questo punto, quindi è proprio allargare la possibilità di vendita. Questo penso che sarà la prossima sfida. Gli addetti della cooperativa. La cooperativa ha 2 persone stipendiate, una è la presidente, che è la Germana Ravelli, che ha, non è un tempo pieno, e la Ilaria, un'altra ragazza che ha fatto tipo qua l'organizzazione, che è un part-time. Ah sì, Guido è quello che guida il camion, ci porta la frutta al mercato. Guido guida il camion. Come vi regolate con i produttori che non sono produttori di arance, che non è possibile andare a visitare? Allora, noi abbiamo stipulato un regolamento per quelli, diciamo, listino trimestrale, abbiamo chiamato, sono quelli più esterni. Sì. Siccome non siamo in grado di poterli controllare noi, chiediamo la certificazione bio, semplicemente così. Però, beh, sul fresco però. Sul fresco lavoriamo con Sicilia Vostra e con un consorzio di produttori bio siciliani, che comunque sono bio. Certo, no, quando si va fuori si chiede il bio, perché quando ci saranno i BGS o i si scambieremo. Questa è un'ottima occasione, cioè un'opportunità che non ha senso, con la logica. Le arance qua non le avremo mai. Che bello. Del lavoro volontario parecchio, cioè io lavoro anche per cortocircuito, ma vengo pagato dall'associazione l'isola che c'è anche sui progetti, quindi è solo quell'associazione ha fatto sta facendo da incubatrice per cui alcune attività vengono sostenute tramite progetti, l'associazione accede a alcuni progetti e riesce a sostenere anche alcuni lavori, una fetta, alcune parti. Però per esempio la struttura fisica che è qua dietro della struttura cooperativa, dove ci sono anche gli uffici, sono gli uffici anche dell'isola che c'è, quindi chi lavora per l'isola usufruisce, però c'è uno scambio, una commistione, diciamo, su questa cosa qua abbastanza stretta. Poi per quanto riguarda le arance basta avere pazienza, il arriva anche qua il cambiamento climatico permette la coltivazione di manghi e arance in abbondanza. Io approfitterei della presenza di Eva, che ha sicuramente una, girando per Europa, ha un punto di vista privilegiato. Allora la questione è questa: tutte queste pratiche, no, di cui si parla, il rischio è che siano, dal punto di vista del cambiamento poi, no, più generale, per me, irrilevanti, nel senso sono, cioè non impattano un cambiamento politico di tutto il sistema della produzione del cibo e del consumo, sono gratificanti per noi, sono piacevoli per noi e anche economicamente interessanti, poi però tutta la macchina che ci sta dietro non cambia. Allora la questione è come queste pratiche possono diventare politiche, come possono trovare, anche dicevo prima, le alleanze tali da diventare un qualcosa che poi incida su come il cibo viene prodotto. Mi sembra, perché vengono anche del mondo della sovranità alimentare, dove parliamo che questo tipo di cose è politica anche, non è soltanto la politica dell'amministrazione, ma fare questo incontro fra noi e politica, perché io vengo un po' a rappresentazione della Spagna, conosco la Francia, questo è politica, questo è il modo che abbiamo adesso per farci conoscere. E dopo fare questa domanda a una spagnola giusta adesso con la Spanish Revolution, alla fine devo dire, sembrava che la Spagna mai iba a avere una reazione, mai. Io ero assolutamente già stanca di pensare che qualche giorno i nostri giovani andavano a fare qualcosa, e alla fine l'hanno fatto e lo stanno facendo. E io credo che questa è la cosa importante, e incominciare a lavorare, fare questo tipo di incontro, scoprire che hanno più gente che fa cose molto simili a cosa facciamo nel resto dei gruppi, perché po' per po' andiamo davanti. E dopo, all'uguale che ho detto questa mattina tantissime volte, che l'importante è la persona a livello locale, che tutto dipende di ogni persona. Se in qualche gruppo avete una persona con un profilo un po' politico, questo va a essere una persona che ha un contatto all'interno dell'amministrazione, o un lavoro con l'AIA, perché questo fa tutto il lavoro di relazione con l'amministrazione, non so. Alla fine si vanno trovando il cammino per andare verso lo politico. E sì, è vero, Anteo ha detto che non aveva nessuna recettività per parte dell'amministrazione con questo sistema, è vero, ma también è anche vero che 5 anni fa non volevano neanche sentir noi parlare di questo. Adesso almeno quando domando una riunione si sedono con me per parlare della cosa, è un piccolo passo. 5 anni fa ero io il clown, ero la hippie che veniva qua con la sua idea rivoluzionaria, adesso si sentono obbligati almeno a ascoltare cosa devo dire. E è vero che, per esempio, l'IFO PGS Committee, abbiamo molto all'interno del settore biologico, è un ampio dibattito, è veramente importante l'IFO, è troppo all'interno dell'amministrazione, è troppo politico, e io sono dentro perché penso che si può fare delle cose, è un strumento di più per arrivare a fare un contatto diretto con l'amministrazione, e qua all'Unione Europea abbiamo molto bisogno di fare questo contatto diretto. L'IFOAM è l'associazione, il coordinamento internazionale di tutto il movimento biologico a livello internazionale. Abbiamo l'IFOAM, dopo l'IFOAM Europa, l'IFOAM America Latina, ma l'IFOAM ha un gruppo internazionale di lavoro su PGS. E siamo un rappresentante per ogni continente e facciamo un po' la coordinazione a livello internazionale di cosa si fa. Abbiamo un bolletto di informazione mensuale dove diciamo, e quello è un altro strumento politico un po', perché noi diciamo alla Commissione Europea, stiamo inviando questo bolletto mensuale a non so quanto siamo adesso, ma 1000 persone, 1000 entità all'Europa, all'interno dell'Europa, non lo so quanto siamo. Ma è una cosa, la gente già dice, mamma mia, e guardano questo bolletto e vedono Italia, Francia, Spagna, Marocco, Senegal, Africa del Sud, Stati Uniti, Vietnam, Laos. Allora il politico dice, mamma mia, questa cosa è crescendo, non posso essere assolutamente bioccato con loro. Si vede un po' all'interno, per cui lavoriamo in questo mondo, vediamo un piccolo progresso, ma è positivo in questo senso. Mi sono anche seduta con un membro della Commissione Europea e ha ricevuto un documento, dopo lo mettono non so dove, ma almeno sanno che esistiamo, che non è poco. E credo che la cosa si fa po' per po' così, e per me è realmente molto importante provare a trovare questi spazi di coordinazione fra paesi. È vero anche che all'Europa non solo siamo i paesi del Mediterraneo che stiamo lavorando con PGS, non so se è una questione culturale o non so perché, ma mi sembra che sì, perché i paesi del nord non fanno niente. E all'interno di questo IFOM, quando parliamo con la gente di Germania verso il nord, non hanno nessuna recettività, perché per loro la terza parte è perfetta, ma per noi... Scusa? Loro hanno il certificato biologico. Sì, e noi la certificazione ufficiale è perfetta, per noi non è perfetta, perché la fiducia non è il stesso concetto qua che al nord. Allora è un po'... Ma almeno fra la Spagna, l'Italia, Portugal abbiamo cominciato a parlare un po' l'Italia. Dobbiamo provare a fare un spazio di incontro, ma questo suppone un po' di soldi ed avere bisogno di soldi che non abbiamo, ma lo facciamo come, no? Approfittiamo questo tipo di incontro e sì, facciamo questo una lavoro politica, e io non so spiegare come, ma quella cosa che è certa è che avanziamo, andiamo davanti, non so come, ma lo facciamo. Sì, questa cosa del raccordarsi fra persone che magari inconsapevolmente stanno facendo lo stesso cammino è importante. Questo, a questo punto esco un po' dal ruolo del facilitatore, anche perché a livello europeo si stanno prendendo grandi decisioni e il rischio è che in qualche maniera appunto si esca come irrilevante rispetto a queste decisioni sul cibo. Io cito anche un'altra rete europea che forse riguarda più i consumatori, che è Urgenci, francese, nasce in Francia, di cui IFOAM è uno degli sponsor culturali e anche operativi importanti. Il distretto di economia solidale della Brianza è membro di Urgenci. Urgenci sta lavorando con PGS. Sì, lo citavo perché lì forse è un po' più spostato sulla MAP, sui consumatori, e quindi forse è un contenitore che vede un po' più i consumatori protagonisti. E è reti di reti, e fra reti di reti, quando parliamo di partenariati tra produttori e consumatori, parliamo fondamentalmente di, come dire, di un'idea di cambiamento della società anche. Questa idea di scopo c'è anche quello del mantenimento della biodiversità. Volevo passare un'ultima volta la parola a Saverio, perché lui è anche un animatore di un percorso italiano interessante, che in realtà anche qua ha un suo omologo a livello europeo, che è quello della rete dei semi rurali, che con no, fiducia, garanzia, saperi e culture ha molto a che fare. Sì, cioè ora l'aggancio rispetto al discorso del PGS è un po' complesso. L'unica cosa si può dire è che sicuramente, come per il PGS, si cerca di riportare il discorso della certificazione un po' qualche passo indietro, no? Cioè, negli anni appunto 60, come diceva Eva, insomma, la certificazione era un problema fra produttore e consumatore, non c'era una terza parte. In un certo senso per i semi il discorso è un po' simile, non del tutto sovrapponibile, però anche lì c'è stato un momento nel quale i semi venivano prodotti per la maggior parte nelle aziende agricole. E questo serviva per mantenere appunto la biodiversità, che comune al prossimo comune cambiavano tutti gli aspetti, cambiavano i semi, quindi c'era un patrimonio di ricchissima biodiversità, questo detto proprio in termini molto poveri. E poi vabbè, le solite regole, i semi adesso sono un problema di ditte sementiere, non più degli agricoltori, come la certificazione è un problema degli enti certificatori, non più del produttore. quindi la connessione è un po' questa. Ora, naturalmente, il discorso qui è un discorso che riguarda più strettamente gli agricoltori, però anche qui si va avanti attivando delle reti, cioè reti in questo caso fra associazioni di produttori che appunto hanno la finalità di mettere insieme dei sistemi alternativi di scambio delle sementi rispetto a quello appunto tradizionale della compravendita, del comprare insieme dalla ditta, cioè. E come il consumatore è un risultato finale, è da dire, cioè è tramite, non so, il risultato mantenimento della biodiversità, quindi della possibilità di reperire varietà alimentari interessanti, insomma, quindi gusti e insomma anche un po' pezzi dell'omologazione generale, no? E il meccanismo è sempre quello, cioè se si attivano reti fra le persone si cerca di portare avanti dei progetti fra gli agricoltori, fra mille difficoltà, si fa un lavoro di ricerca, si scopre il tale produce quel seme lì, quell'altro ne fa un altro, insomma si cerca di fare un catalogo delle disponibilità, si cerca di mettere giù un qualcosa che assomiglia a una scheda, no? Che stamattina abbiamo parlato di schede, cioè queste benedette schede a che serve? Servono a dare un'identità a un qualcosa che in questo momento non c'è più, cioè c'è un qualcosa di occasionale, no? Oppure un qualcosa di ingessato nella situazione dell'agricoltore custode, no? Che custodisce la data varietà, la moltiplica, però è lì, c'è una varietà che non circola, non viene semplicemente moltiplicata, oppure se no addirittura sulle banche dei semi, cioè, ora non mi posso dilungare perché serve a parlare di ore di questo argomento. Però insomma quello che interessa è che appunto si utilizzano le stesse diciamo percorsi, cioè acquisizione di conoscenze, di dati attraverso le associazioni della rete dei semi rurali, no? Fanno parte in pratica le stesse associazioni che sono qui stasera, cioè c'è Aiol, c'è la Ferrucola, c'è l'Asci, c'è Ari, insomma almeno una. Quante saranno adesso? Una quindicina di associazioni, forse, che si mettono insieme e sviluppano un progetto alternativo. Cercano in poche parole di riportare il mantenimento del seme nelle aziende, sul campo. Quindi si fa rete, cose anche si possono dire con estrema semplicità, è così, le cose alla fine sono semplici. Sì, io per completare cito due casi che riguardano dei partenariati di produttori con consumatori che hanno permesso il recupero, il mantenimento e vedremo l'evoluzione di due varietà. Una è quella attivata da Biorec a Padova sul broccolo nero padovano, in cui il sostegno dei consumatori ha permesso di far diventare appetibile dal punto di vista economico una varietà che stava scomparendo di broccolo nel suo piccolo, ha un suo perché, e poi vabbè un'altra di cui ci pregiamo e credo che sia una cosa interessante, che è il recupero della Bianca di Como, questa varietà di patata che è del circolo virtuoso economico che ci stava dietro al circolo dei saperi che si erano persi tra la montagna e la pianura brianzola, che in questo momento è sostenuta anche dal fatto che ci sono un'ottantina di famiglie che non ne acquistano ancora ma acquisteranno patate di varietà di Bianca di Como. E anche lì la cosa interessante è che è stato un percorso di pedagogia a ritroso, al contrario, no? Cioè di cosa vuol dire effettivamente recuperare una varietà che si era ormai persa, di che fatica che ci vuole e quanta complessità. Dunque, sono le 4:15. Se i nostri ospiti non vogliono più aggiungere altro, lascerei la parola invece a tutti gli altri ospiti altrettanto graditi per le loro considerazioni, e poi sono anche magari una domanda dall'unico produttore, dallo 2%, no, tra l'altro qua forse di più, alzate la media. Direi di raccogliere qualche domanda e poi, non so, vediamo di... Tutto chiaro? Tutto chiarissimo. Io volevo solo dire una cosa, perché mi ha fatto piacere, perché per voi l'agricoltura è un bene comune e noi, il nostro progetto all'Andalusia era la gestione comune di un bene. Abbiamo incominciato il nostro progetto così, come gestione comune di un bene. No? Mi fa ridere trovare questa tardi qua e così. Una domanda. Vai, Vincenzo. Che parte da questa considerazione generale. Siccome partiamo da una... Ah, posso chiedervi, vi presentate? Vincenzo del distretto di economia solidale del Parco Agricolo Sud Milano. Molto schematicamente, la crisi dell'agricoltura dipende, io credo, dal fatto che non sia un bene comune. Cioè dal fatto che è un prodotto di mercato. La crisi della cultura c'è perché i prezzi di produzione, i prezzi di vendita sono più bassi dei costi di produzione, perché i prezzi non tengono più conto di quelli che sono i costi reali di produzione. Questi circuiti che noi inneschiamo escono da questa logica, no? Noi non ci basiamo sui prezzi di mercato quando compriamo i prodotti direttamente. Tentiamo di basarci il più possibile sui costi di produzione. Quindi io credo che si possa concludere che, adesso io faccio un po' il gradasso, ma perché siamo tra di noi, che siamo noi la soluzione della crisi dell'agricoltura. Naturalmente nel nostro piccolo, le cose che diceva Giuseppe. Io credo che i sistemi di garanzia partecipata siano un volano eccezionale rispetto allo sviluppo di questi circuiti, nel senso che, come si diceva anche stamattina, costruiscono relazioni, costruiscono appunto rapporti tali per cui queste reti si consolidano attraverso, mentre il sistema di garanzia tradizionale, la certificazione diciamo tradizionale, non necessariamente diciamo si lega al territorio, non necessariamente si lega a un processo di cambiamento sociale. I sistemi di garanzia partecipata, secondo me, invece, per definizione si legano al territorio e si legano, e quindi sono uno strumento eccezionale. Credo che la nostra questione, per esempio in Lombardia, per esempio nel territorio, sia quale può essere l'ambito di legittimazione di questi sistemi. E io la butto lì sempre in maniera un po' gradassa: i distretti di economia solidale possono essere gli ambiti di legittimazione di questi sistemi di garanzia partecipata, no? Nel senso che appunto chi garantisce il singolo cittadino che viene, a Firenze si diceva stamattina, è la Fierucola stessa che in qualche modo garantisce. Io credo che l'esperienza dei distretti di economia solidale possa essere un qualcosa che si aggiunge in più, no? Che sia un ambito in cui riconoscere questo tipo di Vincenzo, tu dai per scontato che tutti sappiano cos'è un distretto di economia sociale? L'ho dato per scontato, secondo me non è... No, giusto per chiarire così anche il tuo giusto intervento. Sentite, è una rete di soggetti dell'economia solidale che, diciamo, per stare nell'economia solidale sono tanti, sono i gruppi da solidali, sono i produttori che si danno finalità anche sociali rispetto alla propria produzione, sono le banche del tempo, sono le botteghe del commercio ecosolidale, cioè sono una rete di quei soggetti che in qualche modo fanno massa critica rispetto, attraverso percorsi concreti rispetto agli obiettivi che ci sono dietro alla propria soggettività dell'esistenza. Non so se mi sono spiegato, però tanto per fare un esempio, nel nostro caso del Parco Sud, l'Istituto Economia Solidale è la rete di gruppi d'acquisto solidale, produttori agricoli del parco che si mettono insieme per sostenere l'agricoltura locale contro la gentrificazione del territorio e per creare un percorso di sovranità alimentare locale, un percorso, un sogno per il momento, però diciamo questo è sostanzialmente il distretto. Ecco, io credo che ci siano le condizioni per pensare, almeno, non so se per fare, che questi ambiti possano essere gli ambiti di legittimazione di questi sistemi di garanzia partecipata che secondo me, ripeto, hanno quel valore in più rispetto alla poi flessibili, no? E poi soprattutto sistemi di garanzia partecipata, tu dicevi, creano una forte identità di gruppo. Pensiamo cosa può voler dire per un distretto di economia solidale in termini di rafforzamento dell'identità di gruppo rispetto a un distretto di economia solidale. Però la flessibilità del caso. Noi abbiamo fatto un incontro poco più di un mese fa con l'AIRB Lombarda per immaginare, per esempio, un sistema che, basandosi sul sistema tradizionale di certificazione, possa prevedere di venire incontro ai costi economici o burocratici dei produttori in questo modo. I produttori che hanno bisogno di certificazione si mettono assieme e si fa una convenzione che dice che, fatto 100 quello che io pagavo come costo di certificazione, le pratiche burocratiche me le assolve per esempio IAB e l'ente certificatore ci guadagna perché fa massa critica sostanzialmente, no? Quindi si può utilizzare anche un sistema di questo genere. Io credo che però il sistema, cioè dobbiamo essere capaci di fare questo passo in avanti risolvendo il problema di come si fa a certificare le cose lontane, ma questo aiuta a far lavorare noi nel rafforzare le reti a livello nazionale e a livello, quindi ciascuna rete può certificare anche rispetto a reti lontane, eccetera, eccetera. Naturalmente come percorso di lungo, però quello che volevo dire era, la domanda è, i distretti possono essere, anche se pensavo che fosse più, i distretti possono essere un punto di partenza anche nella nostra esperienza per sperimentare questi sistemi. Tre piccole questioncelle invece. Dunque, anch'io sono del distretto su Milano. Noi abbiamo già, veramente è del gas base, ma abbiamo già una scheda produttori che comprende quasi tutti gli elementi che hai fatto vedere questa mattina. Hai detto che c'è questo rapporto con AIA. Una questione a parte: nel sud dell'Italia, dove sono concentrate le aziende biologiche produttrici, AIA ha già, a che punto sono, insomma, i sistemi di garanzia partecipata nel sud? E torno invece a noi: che supporto potrebbe dare AIAB se si decidesse di partire in questa direzione? Secondo me il problema è che noi abbiamo la scheda ma non ci viene restituita, che il punto è che noi la mandiamo, non chiediamo di compilarla assieme, non facciamo una visita, ma l'abbiamo mandata e la considerano tutti troppo complicata. Una terza questione ancora è, una volta compiuto il primo accertamento della corrispondenza disciplinare. Poi c'è una verifica periodica annuale o come avviene nella certificazione per conto terzi, no? Della rispetto della conformità nel corso del tempo oppure... Io volevo fare un'altra questione. Noi siamo in un territorio che non è più agricolo, lo è solo in una fetta, lo siamo detto tante volte, mais per le mucche, maiali, o al limite si promuove il prodotto tipico perché fa marketing territoriale. La politica guarda a questi due livelli, no? Difende le quote latte e promuove il misurtin, che è il prodotto tipico qua. Non è... Seccato. Agone pressato e messo sotto sale. Posso parlare di qualche. No, ma c'è una sua tradizione. No, che è nobile come cosa, però per dire quali sono i livelli in questi territori in cui l'agricoltura non è più. Forse non è diverso nemmeno nei territori in cui l'agricoltura non è più certa, perché le logiche sono simili. Comunque la sostanza è. Noi non abbiamo agricoltori contadini, nel senso piccoli agricoltori che fanno prodotti per il consumatore quotidiano, ce ne sono veramente pochi. Quindi siamo in una situazione che è pre-certificazione. Stiamo lavorando per accompagnare quei pochi che ci sono a certificarsi, o perlomeno a diventare biologici. Come diceva un po' prima Giacomo, il nostro sforzo è che collaborare il più possibile con produttori locali e far sì che diventino biologici. Poi chi vuole, se vuole anche certificarsi, l'importante è che siano biologici. Quindi questo senso il PDS aiuta. A me sembra che un approccio partecipato di questo tipo è utile localmente, laddove c'è bisogno di uno sviluppo locale, cioè forme di economia depressa hanno bisogno di... Ecco perché forse al sud del mondo... si attivano questi processi. Qui è una forma di economia, quella agricola contadina, che è depressa e può aver bisogno di processi di autosviluppo che la avvivino, laddove anche le istituzioni non vedono questa necessità. Però forse siamo ancora indietro, cioè ci mancano ancora una quantità minima, massa critica di agricoltori per fare questo discorso. Quindi l'obiettivo finale poi alla fine è coinvolgere gli agricoltori esistenti che hanno una logica vecchia e coinvolgerli passo passo a entrare nella logica del biologico. La logica del biologico è un primo passo, un primo step. La logica partecipativa è ancora più complessa. Secondo noi essere biologici significa anche, per esempio, non dare lavoro in nero, ma significa anche collaborare con gli altri biologici. Con i pochi biologici che sono sul territorio non riusciamo a collaborare facilmente perché hanno una nicchia di mercato estremamente competitiva e fra loro, cioè non guardano di buon occhio per assurdo la diffusione del, lo dico a malincuore, non collaborano con gli altri biologici e non collaborano con queste realtà perché hanno già la loro nicchia da difendere. Se tu gli moltiplichi i biologici intorno gli rovini quella nicchia lì. La dico un po' semplificando, però l'esperienza è stata proprio questa. Noi siamo messi a collaborare con, cioè noi siamo messi, abbiamo trovato più riscontro in chi è più giovane, no? Cioè c'è qui Davide, ma anche tutti quelli con cui collaboriamo maggiormente sono, non ce n'è nessuno, cioè Giuliano ha 40 anni, cioè sopra i 50 anni non ce l'abbiamo, sono tutti agricoltori che hanno un'apertura mentale un attimino più forte, no? In cui già far passare l'idea di fare delle cose insieme non è banale. Noi stiamo vedendo dopo 4 anni che facciamo il mercato al quarto anno e ogni anno proviamo a programmare insieme, vediamo che accompagniamo in realtà queste giovani aziende a strutturare meglio la loro vendita diretta. Quando loro vendono direttamente vendono bene, quello che succede è che ci dicono guarda, già ce l'hanno poco, quel poco lo vendo bene a casa mia a un prezzo migliore, non te lo do. Allora, e qui subentra l'altra difficoltà, il passaggio 2. Cooperare in agricoltura da sempre è stato un fattore fondamentale per stare in piedi. In alcune regioni italiane la cooperazione ancora si sta, anche se si è deformata nella grossa cooperazione a volte, no? ma anche nel biologico ci sono cooperative. Se noi eravamo col Biorec a Padova, c'è il Tamiso che da 25 anni che sono produttori biologici che cooperano, probabilmente con la nostra storia era diversa. Aggregavamo i produttori, i consumatori, i produttori c'erano già e avevamo tre quarti del lavoro già fatto, no? Che prospettive abbiamo? Le prospettive sono di riuscire a moltiplicare gli agricoltori qua sul territorio. E quello che vediamo è che ci sono troppe logiche da far passare, c'è la logica del biologico, c'è la logica del cooperare insieme e ancora sinceramente sento molto timida questa, non c'è la massa critica di persone forse che hanno bisogno di mettersi insieme per difendersi, perché il tessuto è stato già distrutto sulla montagna, da Como in su, cioè tutta la zona che per la comunità europea è una zona depressa, viene classificata in quelli che sono le aree depresse. Non c'è un'azienda agricola che vive del fare azienda agricola, cioè sta qualcuno che sta mettendo a fare le capre, ma cioè, lì non c'è quindi lo stimolo. Allora, chiudo. Nel nostro percorso i PGS si sposano benissimo perché stiamo già facendo una cosa simile, però ci dobbiamo inventare anche l'offerta, la domanda, ci dobbiamo inventare gli agricoltori e i processi sono tanti, ecco. Non so se quel tipo di processo va bene, dovrebbe avere una coscienza più forte anche da un numero di soggetti sufficienti sul territorio. Posso dire qualcosa? Ora ho detto, ho fatto un excursus, solo pardone forse, questo esame, però ho finito dicendo, parlando di fantasia, sì, è un problema proprio di fantasia. Cioè, se qualcuno ha letto la rivista Valori, il numero di febbraio del 2011, c'era un interessante articolo su un esperimento che stava fatto a Pisa, dove in pratica si sono veramente inventati un'azienda mettendo insieme un terreno in affitto, un cassa integrato, o uno che aveva perso il lavoro, e un gruppo di consumatori che hanno messo insieme strumenti di produzione, il lavoro e quindi anche i risultati. Cioè, ora in dettaglio lo sto, anche perché è un po' complicata, ci sono diversi aspetti, però in questo articolo sono ben descritti punto per punto e insomma, è una lettura istruttiva. Quello che va sottolineato è che la risposta a tutti i residui italiani può essere una risposta complessa, nel senso che non può essere che il frutto di una serie di come si chiamano? Attività positive, ma insomma c'è proprio una parola, scusa. Azioni positive, sì. Sinergie. Tutte queste cose qui si devono incontrare, cioè si devono incontrare le istituzioni che danno spazio, devono incontrare le necessità dei consumatori, le potenzialità dei soggetti che non sono poi solamente giovani, perché attenzione, ci sono tutta una serie di soggetti sono potenzialmente interessati al lavoro agricolo, che sono anche quelli o che hanno un lavoro part-time o che sono in una situazione di perdita di lavoro, purtroppo di perdita di lavoro, insomma, e che sono anche possono essere molto interessati a fare questo lavoro. Quindi cioè, se uno deve stare sul territorio e conoscere il più possibile il territorio nel quale si trova. Stai a guardare, vabbè, ogni territorio ha le sue specificità, cioè come ti dicevo prima si parlava, per noi è tutto diverso, cioè per noi non c'è il problema della terra, c'è il problema dell'abitazione, cioè capito? Se vai un po' più in qua, insomma, vai in Trentino e vedi la gente della montagna che da sempre deve affrontare difficoltà estreme, quindi è super organizzata e sa lavorare insieme, l'amministrazione dà grande spazio a questo tipo di cose e lì c'è un'agricoltura che per noi dalle nostre parti ce la ci si sogna. E quindi cioè, stare sul territorio e lavorare di fantasia. io vi ricordo, relatori, che abbiamo, lo dico così, un debito su una domanda, sì, sui, sì, distretti, sì, sì. E poi la questione delle schede e il ruolo di AIA. Infatti io non li ero segnati, io volevo dire che, rispondendo un attimo anche a quello che diceva Marco, effettivamente cioè le difficoltà rispetto a quelle che sono le prospettive sono tante, premesso quello che dicevo prima, che in un settore dell'agricoltura che è in calo costante, il ruolo del biologico è un ruolo di nicchia, però anche anche nel biologico troviamo delle, come dire, delle considerazioni che già in passato rispetto al mondo agricolo si sono sempre fatte, cioè la difficoltà di mettere assieme gli agricoltori è un problema storico del mondo agricolo italiano, non è un problema di adesso, nel senso che è sempre esistita questa difficoltà. In più noi notiamo che anche sul biologico troviamo quelle situazioni che dici tu, effettivamente la persona che è arrivata si è fatto il suo mercato, si è fatto il suo giro di gas, si è fatto il suo gruppo, è riuscito a crearsi un suo equilibrio e non vuole andare oltre, cioè dice io sto bene così, mi faccio le mie cose. E anche questo secondo me è una logica che bisogna, come dire, sradicare, perché è vero che tu adesso, come dire, sei arrivato, ti sei fatto il tuo giro, però devi pensare che quello che ti viene chiesto non è solo chiuderti in te stesso, ma vedere se è possibile allargare le tue esperienze in modo tale che diciamo il biologico possa andare avanti. Per quanto riguarda i distretti, io penso, Vincenzo, che i distretti possano essere uno sbocco naturale di queste esperienze dei sistemi di garanzia partecipativa, cioè nel senso che io penso che, se è possibile, come anche a livello regionale, mettere in cantiere delle sperimentazioni, già penso che anche Andrea Ferrante con il distretto della retina di Monza e Brianza si è detto, vediamo se è possibile sperimentare, fare delle esperienze, e magari questa cosa la possiamo fare sia su Monza, possiamo farla in due o tre come dire, aree, vedere se è possibile, vedere che effetto fa, ci diamo un obiettivo di sperimentazione, vediamo alla fine di questa sperimentazione se ha sortito a qualche risultato, perché io penso che la questione dei sistemi di garanzia partecipativa è tutta una sperimentazione, perché a differenza di altri istituti di certificazione che già sono ben definiti o che magari, come la certificazione di gruppo, verrà definita a breve, mi auguro, per quanto riguarda i sistemi di garanzia partecipativa è tutto da sperimentare, per cui ben vengano delle sperimentazioni sul territorio. Per quanto riguarda AIAB, noi siamo aperti, nel senso che sperimentazioni sono già state fatte a livello nazionale, e se le facciamo anche in Lombardia ben vengano. Nel sud non so dirti effettivamente se ci siano delle esperienze, sono state fatte delle esperienze per quanto riguarda la certificazione di gruppo in alcune aree a parchi, in particolare nel Parco del Cilento è stato fatto questa sperimentazione sulla certificazione di gruppo. Poi, per quanto riguarda il ruolo che AIAB può fare, noi, come ho già detto, siamo disponibili e siamo sempre aperti, perché il nostro ruolo è quello di promuovere l'agricoltura biologica. Nell'eventuale possibilità di sperimentare queste cose, questi sistemi di garanzia partecipativa, possiamo anche svolgere una parte di quel ruolo burocratico che tante volte va a creare problemi alle aziende. È chiaro che bisogna sederci a un tavolo, cioè ragionare bene, perché le cose vanno fatte bene, capire cosa possiamo fare noi, cosa fa l'ente certificatore o il tecnico e cosa devono fare le aziende. Però in un'ottica di collaborazione queste cose si possono definire. Ecco. Allora. C'è la visita annuale, sì. Incomincio bene. Per me la risposta è sempre sì. Se puoi, sì. Se hai voglia, sì. La cosa è sapere così, quando uno fa una proposta si interessa farla. Sì, esattamente. La questione è sapere come. La questione è sapere come. Allora, sapere quanta gente partecipa, in quali settori stai lavorando, per sapere qual è il vostro ruolo. in questo sistema. Allora, sì, non so veramente se il distretto hanno agricoltori o no. Hai gente, sì. Allora, perfettamente, avete tutto per incominciare, perché avete gente sul territorio, avete già un lavoro in rete, avete comunicazione, avete incontro, spazi di incontri, oltre momento di lavoro insieme. E sì, l'unica cosa da fare è parlare di tutto lo vostro più PGS, SMC. È un po' così, per me sarebbe bellissimo. Sì, è un posto, perché l'idea è trovare un spazio di incontro per parlare e dopo naturalmente le cose escono, no? E dopo faccio il ponte con il problema di produttori. Noi in Andalusia abbiamo un problema perché abbiamo lavorato, uno dei gruppi dove, con cui abbiamo lavorato era Jaén, e Jaén è un deserto di olivi, solo fanno olive, anche un po' d'allevamento, ma è tutto di olive. Allora, come fare una vendita diretta di olio a gente che produce olio, che fa olio? È un problema. Allora, abbiamo lavorato con loro come fare, come si poteva soluzionare questo, e alla fine abbiamo tre persone che si sono diversificate e hanno cominciato a fare l'orto per vendere, perché la chiave è avere un mercato per vendere. Questa gente sapeva che avevano un mercato perché i consumatori erano qua, i consumatori domandavano questo ortaggi, allora hanno detto ok, facciamolo. E dopo hanno fatto un'associazione e adesso sono vendendo anche a Jaén, la capitale, veniva dalla montagna, della Sierra de Segura, e vanno a Jaén una ora e mezza di macchina per vendere la sua produzione a gente, consumatori di Jaén. Cosa si deve capire di PGS è che non è una regola normale. Allora, sì, il bisogno è cercare i produttori, parli con l'AIA, è sicuro che l'AIA può fare un incontro e voi dicete noi siamo un mercato, abbiamo bisogno di produttori, sicuro che qualcosa esce, io non so cosa, ma qualcosa, non lo so, ma è interessante chissà incominciare per qua a fare un incontro fra produttori da tutta la Lombardia con voi e dire noi cerchiamo un produttore di questo, ta ta ta, ta. È così di facile, così avete almeno già anche io per questo secondo me. Sì, sì, sì, no, ma sono cose reciproche, ma hanno 400 persone che fanno, sì. Contatti ci sono. E chissà, hanno gente che fa l'orto soltanto per il fine settimana e puoi fare un po' di più per vendere, non lo so. Quello è, per me da fuori è un po' difficile capire, ma un po' il processo è sapere cosa ho e cosa ho bisogno. E se ho bisogno di produttori vado a provare a lavorare in rete con gente che ha un contatto. Quello che stiamo facendo già questo. Sì. La certificazione arriva un po' dopo. Cioè avere il prodotto fresco, di verdura fresca qua sul territorio, per il produttore, anche se non è certificata, la vende. Cioè non c'è nulla, per cui la certificazione arriva dopo aver capito il biologico, dopo aver capito la partecipazione. E la certificazione? E dopo aver raggiunto il bisogno di mettersi con altri a certificarsi per aprirsi un mercato. E dopo avere... Quello è il problema, la certificazione partecipativa arriva dopo la certificazione per terza parte, quando hai conosciuto cosa è, che non ti piace, o sei, e se non ti piace vai un po' davanti, ma è una questione di ritmo, non si può domandare alla gente così di dire ok, mettiti a lavorare, partecipare, essere qua, riunioni, incontri, se non hai una domanda, un bisogno vero di lavorare. Io ho già detto un po' anche stamani, stamattina, cioè, nei nostri gruppi ci sono diversi che hanno certificazione parte terza e che comunque si impegnano nel PGS perché hanno capito le potenzialità relazionali che sono molto interessanti anche se uno le valuta solo dal punto di vista economico. E dopo il punto di vista del, ho dimenticato la parola, apprendisaggio? Quando si impara? Apprendimento. Quando si capisce lo importante che è imparare con altri produttori come risolvere il tuo problema, perché alla fine un SPG per il produttore è non sono più solo per risolvere il mio problema. Se non so come fare per la tutta revoluta, assoluta, non, sempre mi dimentico questo problema di pomodori da 3 anni fa. Noi abbiamo in Spagna un problema di pomodoro che è orribile perché è un... insetto. Sì, che mangia tutto il pomodoro e fa un buco nero grossissimo. Cimice? Cimice verde? No, no, è una cosa nuova. E l'abbiamo in Andalusia fa 3 anni e nessuno sa come fai. Sì, è un cosa, oh, mamma mia, un ver un lepidotto. Sì, ma la larva, la larva. Adesso. E si mangia tutto. Allora la gente è assolutamente spaventata perché non sa come fare. Nessuno prodotto arriva a tempo, nessuno chimico o troppo chimico, al biologico non sanno come fare. Allora si fa qualche incontro fra agricoltori in una macchina per andare via a una riunione, il tema di conversazione era tutta così. E per loro è molto importante perché come si chiama questo insetto? Noi lo chiamiamo tutta assoluta perché tutto spare con lei, una cosa, ma non so il nome latino, non so. Il frutto, ma verdi, quando è verde. Allora adesso in 3 settimane incominciamo a avere problemi con lì, ma è impossibile di vendere questo frutto perché il pomodoro spare totalmente e tutti gli spezie. Allora la gente avevano qualche spezie varietà locali che sono un po' più resistenti, allora, ma gli agricoltori lo parlano, il tomate pera perché il mio l'ho fatto, l'ho messo, e per loro è tantissimo importante questo momento di, per imparare, trovare soluzioni insieme, e PGS alla fine sono anche questo. Allora è un altro modo, ma il problema è che questo si scopre a me, no? Quando si va andando, non al principio, ma l'AIA ufficialmente non ha ancora nessuna esperienza al sud, ma ho avuto almeno così 2 o 3 chiamate da gente di Catania e Umbria che siano interessati, ma è qua, mi hanno detto. Mi viene in mente qualcuno che può aver fatto una telefonata. E per me il ruolo dell'IAB in questo, all'Italia, mi sembra, chissà i gas anche, non lo so, ma almeno una struttura come l'IAB che ha una implantazione sul territorio a livello nazionale e dopo ha un strumento, una organizzazione nazionale con una coordinazione nazionale, è un esempio buonissimo, volevo dire perfetto ma niente è perfetto, per arrivare a questa coordinazione di PGS. Parlavamo questa mattina del marchio, come fare quando abbiamo bisogno di fare una coordinazione a un livello territoriale ampio, e l'AIAB è una struttura, non so se i GAS hanno intergas organizzati, chissà se i GAS hanno anche questa struttura organizzata fra regione dopo nazionale. Sì, c'è un intergas. Sì, c'è una rete di intergas. Qualche rete, qualche istituzione, chi lavora in rete, no? Da un territorio che vanno facendo scale sopra l'una di altra, al fine hanno una visione generale, ma con una atterrissaggio, una presenza sul territorio, e cosa hanno bisogno PGS per avere una coordinazione a livello nazionale. Allora l'AIA può fare questo ruolo, e di più, di fare tutto il ruolo di accompagnamento più tecnico, rappresentanza dei produttori. Sì, diciamo che a livello nazionale la Cristina, che ne sappia già questo ruolo, lo sta svolgendo. Sì. Noi come AIA Lombardia ci rendiamo disponibili nell'eventualità in cui anche in Lombardia si riesca a mettere in piedi delle esperienze. Ecco. Noi non abbiamo in Spagna nessuna organizzazione biologica a livello nazionale. E allora siamo assolutamente persi, perché quando vogliamo fare qualcosa a livello nazionale dobbiamo fare una riunione fra 17 regioni. È impossibile trovare una data per fare che tutto il mondo sia là. Allora avere una struttura, se noi avessimo una struttura come l'AIAB, le cose sarebbero un po' più facili, ma non l'abbiamo. Allora per me l'AIAB è una cosa a livello dell'agricoltura biologica, essere così organizzato a livello nazionale ma con presenza sul territorio è bellissimo. Noi abbiamo una società scientifica che è biologica, e dopo abbiamo a livello regionale qualcuno ha qualche associazione, ma non tutte le regioni lo hanno, allora per noi fare una coordinazione è molto difficile. La certificazione in Spagna com'è che avviene? È regionale, ogni regione ha un certificatore. No, la sua legge prima, il suo modo di certificare, abbiamo due soltanto privati, Andalusia e Castiglia-La Mancia, abbiamo uno misto, Aragon, e tutto il resto sono solo pubbliche. Pubblico. Allora qualcuno fa cosa vuoi, è orribile fare la coordinazione di là. E dopo, per la visita, l'idea è arrivare alla sovvenzione per i produttori. Noi, io ho sempre lavorato con loro e sempre vogliamo essere all'interno del mercato e avere accesso a questo fondo. Allora dobbiamo almeno seguire il regolamento europeo che esige, obbliga a fare una visita annuale. Ma dopo, alla Spagna abbiamo deciso di fare anche una possibilità di mettere più visite all'anno. Abbiamo una visita di sospetto. Sì, qualche persona del gruppo può dire di maniera anonima, non mi fido di lui, facciamo un'altra visita. Dopo si può fare anche una, dopo la riunione di commissione di certificazione, se si decide che manca un po' di informazione o non siamo troppo sicure, possiamo prima di prendere la decisione può essere abbiamo bisogno di un'altra visita, allora quest'altra visita si fa nell'anno. E dopo abbiamo alla Spagna anche fatto una scelta di mettere all'azar, così prendo del numero d'aziende del gruppo, sorteggio, prendere un 20% e fare un'altra visita di nuovo, così, senza prevenire, senza... Dopo all'Italia si hanno messo l'IAB una visita di formazione, perché è importante sapere come fare questa visita. E l'idea, ovviamente, è utilizzare questa visita per un'azienda dove si manca un po' più di informazione o che è un po' più, noi diciamo la corda che è un po' più al limite. Allora facciamo questa visita di formazione con un gruppo di consumatori, ma è un altro modo di fare una visita di nuovo. Quella è la flessibilità dei PGS. Se poi ogni gruppo può decidere come fare lo suo. Va bene, ci sono altre urgenze, quesiti sicuramente. Io però vi direi anche che i nostri relatori sono da stamattina che stanno parlando, quindi se ci sono delle cose particolari, se no direi che questo discorso qua continua e continua in prima battuta il 24-26 giugno all'interno, a proposito di coordinamenti nazionali. All'interno dell'Assemblea Nazionale Gas ed Es d'Italia 2011 all'Aquila, il tema dell'economia solidale e della coesione sociale visto dal punto di vista del disastro della ricostruzione all'Aquila. Lì ci sarà un gruppo che rifletterà su Alternative Food Network, sistemi alternativi di produzione e consumo di cibo, alleanze in Italia, e ci sarà anche il tema dei PGS, speriamo di essere lì tanti, quindi questo è l'invito che facciamo. Volevo anche ricordare da dove nasce questo discorso, perché questa cosa che ognuno ha le sue variabili, e volevo ricordare che la riflessione sui PGS nasce in realtà da una lettera, anche questa di Disagio, non citerò chi l'ha scritta perché sennò... per i fatti di Rosarno, perché ci sembrava assolutamente iniquo il fatto che nei fatti di Rosarno del 2009 sono già passati 2 anni, di fronte a quello scandalo dei lavoratori sottopagati e pagati, l'unico tema che fosse, no, che girasse all'interno del consumo critico fosse la questione del biologico. E invece da questa, no, appunto, disagio è nato un percorso di riflessione che ha detto c'è già gente che sta riempiendo la certificazione di altri valori, di altre, e questa cosa si chiamava PGS. E quindi siamo qua oggi a cercare di capire come entrare in questo fiume che era già stato attivato, che è anche più grande della riflessione che abbiamo fatto oggi. Quindi gli appuntamenti ci sono, un piccolo pezzo di storia, di strada l'abbiamo fatta. Io darei la parola a Marco per saluti conclusivi, così. Presidente Giacomo. Accido solo che abbiamo in ballo una progettualità per il prossimo anno che coinvolge i distretti di Como, Monza e Varese, e speriamo anche voi di poter essere nel Parco Sud a Milano per sperimentare il PGS, provare a metterlo in movimento tramite un bando della Fondazione Garlo di educazione alla sostenibilità. Per cui cerchiamo sempre di rendere delle cose e amalgamare, cioè aggiustarle per farci stare quello che ci sembra sensato. Quindi, potrebbe essere questo, se non passa, comunque l'intenzione è di sperimentare. In questi anni la fantasia non sono mancata. No, il problema non è un saldo. Se passerà. Senti, io saluto tutti i partecipanti, i relatori in primis, Eva che ha fatto più strada di tutti, tutti voi che siete qua. Speriamo di rivederci in altri contesti, ma magari avendo fatto dei passi in più poterci raccontare qualcos'altro. Grazie a tutti e alla prossima. C'è un piccolo ritorno.